Sezione decima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto decimo. Guardando nel suo figlio con l'amore che l'uno e l'altro eternamente spira, lo primo ed ineffabile valore, quanto per mente o per occhio si gira, con tanto ordine e fe, che esser non puote senza gustar di lui chi ciò rimira. Leva dunque, lettore, all'alte ruote meco la vista dritto a quella parte, dove l'un moto all'altro si percuote. E lì comincia a vagheggiar nell'arte di quel maestro, che dentro a sé l'ama tanto, che mai da lei l'occhio non parte. Vedi come da indi si dirama l'obliquo cerchio che i pianeti porta per soddisfare al mondo che gli chiama. E se la strada lor non fosse torta, molta virtù nel ciel sarebbe invano e quasi ogni potenzia quaggiù morta. E se dal dritto più o men lontano fosse il partire, assai sarebbe manco e giù e su dell'ordine mondano. Or ti riman, lettor, sovra il tuo banco, dietro pensando a ciò che si preliba, s'esser vuoi lieto assai prima che stanco. Messo t'ho innanzi, omai per te ti ciba, che a sé ritorce tutta la mia cura quella materia ond'io son fatto scriba. Lo ministro maggior della natura, che del valor del cielo il mondo imprenta e col suo lume il tempo ne misura, con quella parte che su si rammenta, congiunto si girava per le spire, in che piuttosto ogni ora s'appresenta. Ed io era con lui, ma del salire non m'accorsio se non com'uom s'accorge, anzi il primo pensier del suo venire. È Beatrice quella che si scorge di bene in meglio sì subitamente che l'atto suo per tempo non si sporge. Quant'esser convenia da sé lucente quel che era dentro al sol dov'io entrami, non per color ma per lume parvente, perch'io lo ingegno e l'arte e l'uso chiami, sì non direi che mai s'immaginasse, ma creder puossi e di vedersi brami. E se le fantasie nostre son basse a tanta altezza, non è maraviglia che sovra al sol non fu occhio c'andasse. Tal era quivi la quarta famiglia dell'alto padre, che sempre la sazia, mostrando come spira e come figlia. E Beatrice cominciò: ringrazia, ringrazia al sol degli angeli, ch'a questo sensibil t'alevato per sua grazia. Cuor di mortal non fu mai sì di gesto a divozion ed a rendersi a Dio con tutto il suo gradir cotanto presto, come a quelle parole mi fec'io. E sì tutto il mio amore in lui si mise che Beatrice eclissò nell'oblio. Non le dispiacque, ma sì se ne rise che lo splendor degli occhi suoi ridenti mia mente unita in più cose divise. Io vidi più fulgor vivi e vincenti far di noi centro e di sé far corona, più dolci in voce che in vista lucenti. Così cinger la figlia di Latona vedem talvolta, quando l'aere è pregno sì che ritenga il fil che fa la zona. Nella corte del ciel, ond'io rivegno, si trova molte gioie care e belle, tanto che non si posso entrar dal regno. E il canto di quei lumi era di quelle. Chi non s'impenna sì che lassù voli, dal muto aspetti quindi le novelle. Poi sì cantando quegli ardenti soli si fur girati intorno a noi tre volte, come stelle vicine a fermi poli, donne mi parver non da ballo sciolte, ma che s'arrestin, tacite ascoltando, finché le nuove note hanno ricolte. E dentro all'un sentii cominciar, quando lo raggio della grazia onde s'accende verace amore, e che poi cresce amando, moltiplicato in te tanto risplende che ti conduce su per quella scala, u senza risalir nessun discende, qual ti negasse il vin della sua fiala per la tua sete, in libertà non fora, se non com'acqua calmar non si cala. Tu vuoi saper di quai piante s'infiora questa ghirlanda, che intorno vagheggia la bella donna che al ciel t'avvalora. Io fui degli agni della santa greggia, che Domenico mena per cammino, u ben s'impingua se non si vaneggia. Questi, che me a destra più vicino, frate e maestro fummi, ed esso Alberto è di Cologna, ed io Tomas d'Aquino. Se tu di tutti gli altri esser vuoi certo, di retro al mio parlar ten vien col viso, girando su per lo beato serto. Quell'altro fiammeggiare esce dal riso di Grazian, che l'uno e l'altro foro aiutò sì che piacque in paradiso. L'altro che appresso adorna il nostro coro, quel Pietro fu che con la poverella offerse a Santa Chiesa il suo tesoro. La quinta luce, che è tra noi più bella, spira di tale amor che tutto il mondo laggiù una gola di saper novella. Entro v'è l'alta luce, u sì profondo saver fu messo che, se il vero è vero, a veder tanto non surse il secondo. Appresso vedi il lume di quel cero, che giuso in carne più addentro vide l'angelica natura e il ministero. Nell'altra piccioletta luce ride quell'avvocato dei templi cristiani, del cui latino Agostin si provvide. Or, se tu l'occhio della mente trani, di luce in luce dietro le mie lode, già dell'ottava con sete rimani, per veder ogni ben dentro vi gode l'anima santa che il mondo fallace fa manifesto a chi di lei ben ode. Lo corpo onde ella fu cacciata giace giuso in ciel d'auro, ed essa da martiro ed esilio venne a questa pace. Vedi oltre fiammeggiar l'ardente spiro di Isidoro, di Beda e di Riccardo, che a considerar fu più che viro. Questi, onde a me ritorna il tuo riguardo, è il lume d'uno spirito che in pensieri gravi a morire gli parve esser tardo. Essa è la luce eterna di Sigeri, che leggendo nel vico degli strami sillogizzò invidiosi veri. Indi, come orologio che ne chiami nell'ora che la sposa di Dio surge a mattinar lo sposo perché l'ami, che l'una parte l'altra tira ed urge, tintin sonando con sì dolce nota che il ben disposto spirito d'amor turge. Così vid'io la gloriosa ruota muoversi e render voce a voce in tempra ed in dolcezza che esser non può nota se non colà dove il gioir s'insempra. Fine del canto decimo.